baracchino, a parte te, siamo in due, mi. Gli altri sono tutti a dito nel sedere. Capito, non ce la fanno più, dal caldo e non solo. Noia, ho aspettato per tre quarti d'ora un parcheggio io. Lo sai, non è uscito nessuno, faccio il giro sopra, niente. Finalmente è uscito uno di fronte all'origa. Sono andato in fretta, ho aspettato sto casa e mi sono messo ad avvistare macchine che uscivano. Come ho visto quello mettendo roba dentro, vai, lì rimane all'ombra anche quando andiamo al mare di pomeriggio, mi. Capito? Caro Natalino, pensa che ieri era acceso tutto il giorno, non ho sentito un'anima. Siamo rimasti a casa ovviamente, no? Non c'era un'anima, neanche di domenica. Io sono sceso a Porto Torres, sono sceso che c'era la gara canina, è sceso anche Gianni, ho fatto delle foto e via. Ah, la gara canina c'era. Non lo sapevo, non lo sapevo. Se no ieri era fresco, mi. È venuto un vento fresco, ci poteva pure andare. E non lo sapevo. Invece sabato hanno fatto a Sassa il Pride, mi. Il Sardegna Pride. Tutti i cibi mi c'erano. Tutti fresci, tutti fresci. L'avrei voluto vedere, guarda. L'avrei voluto vedere per curiosità. Io adesso mi sto denudando, sono, non c'è il caldo degli altri giorni, è più ventilato, insomma è più vivibile, dai. Ok, poi cosa ti racconto, che la batteria della moto mia è stata ferma ormai un anno, non si è scaricata proprio. Vado a usare il grosso caricabatterie che avevamo noi, un caricabatterie a trasformatore, no, di quelli, è di vecchio di 30 anni fa, e può, ha 4 posizioni di carica, lo metto, niente, morto il caricabatterie, dopo 30 anni ci ha lasciato. E vabbè, ma la moto la puoi mettere con i cavi, il mozzo, capito, e poi si carica la batteria. Ma sai com'è? Attaccare una batteria da 50 ampere dalla macchina, no? A una batteria di soli 10 ampere non è molto... non è molto... non va molto bene. Quella va caricata lenta. Praticamente è una batteria... aveva ragione Claudio, mi. Io ho detto che aveva i tappi per... riempire di acqua distillata, no, per rabboccare. Invece aveva ragione Claudio, la batteria è sigillata, sempre piombo e acido, ma sigillata. Non puoi rabboccare i tappi, un po' è una fregatura, però quella c'era, era una Yuasa, un'ottima batteria. Yuasa sono batterie giapponesi, durano anche un bel po'. Senza batterie, senza caricabatterie non la posso caricare. E vabbè. Adesso, siccome volevamo mettere in moto la moto, no? Fare assicurazione, pagare i bolli, la revisione, tutto, no? Però ci stiamo dando più al mare, ho detto io adesso c'è troppo caldo per fare queste cose qua, pensiamo al mare, poi anche a settembre mi va bene metterla in moto, quella moto lì, tanto io la uso tutto l'anno, se la metto in moto la uso tutto l'anno, non la uso solo d'estate. È tutto qui, dai, ho fatto un po' di spesa da Lidl, ho preso due cosette, preso un accessorio, una pinza che si richiude, e anche tipo coltellino, seghetto, cacciavite, croce a taglio, un bel accessorio, dai, ti danno anche la custodietta, la voglio lasciare in macchina nel cofano dietro, perché se serve un cacciavite, sai, una pinza, un coltellino per tagliare qualcosa, almeno ce l'ho ed è pronto. Mica, ma... ecco. quanto l'hai pagata quella lì. Poi vorrei sapere da che Lidl vai tu, perché c'è sia vicino a Falcone, dove abitava Falcone, che su Serrasecca. Guarda, io vado nel Lidl dietro lo stadio, dietro Piazzale Cenni, non mi ricordo la via, ma è lì. C'è quello che dici tu a Serrasecca, sì, è dietro lo stadio proprio. Mi viene meglio perché faccio via Gravetti, via, poi su continuando, su fino a via Gramsci, poi via Gramsci, mi giro lì a via Gramsci, vado sempre verso lì, verso zona Biele Adua e poi arrivo dritto a Lidl, molto semplice, sono due vie tutte dritte. Lo so che c'è da Paoletto, è vero, è vero. E della Crivit, allora Crivit, utensile multiuso, ed è una pinza pieghevole che ha lo stesso, ho detto, coltellino, cacciavite, lima, cacciavite a taglio, cacciavite a croce, seghetto e altre menate che non ho idea di cosa servano. E ti danno anche la custodietta. Se io ti mando la foto, se ti interessa, costa 6,99. E penso, tanto devo andare a ritirarmi una molla per la pistola, devo andare da quello di via Napoli, me la sto comprando nuova, non me ne sbatte nulla. Io già l'ho riparato il tappino, gli ho messo il tappino che avevo perso al campo quando sparavo a raffica, però me la metto nuova, originale. La molla, in che senso? Una molla è una molla che spinge un cilindretto di ferro che va a bloccare l'estrattore, no, e la sicura al percussore. Ah, gioco un peso, dai. Ho capito. Adesso ti mando la foto, Su WhatsApp ce l'hai attivo, sì? Il telefono devo ritrovare, no, ma la conosco, è che la stavo cercando perché ce l'aveva il mio ex cognato quando è entrato nei pontili e ci aveva questa pinza con la custodia che è multiuso, capito? Naturalmente non so se sia quella, questa è abbastanza economica. È abbastanza economica. Cos'è questa cosa che mi fanno vedere? Fine? Fine? Cos'è sta roba? Mai, aspetta. Ma ogni tanto mi arriva roba strana mia là. Messaggi strani a questo computer, smartphone. Oh, Natalino, caro, meno male ci sei tu che mi capisci, che entri a parlare in radio soprattutto. Comunque le foto le inviate, quando con calma vuoi trovi il telefono, te le guardi, così ti fai un'idea. Me la stavo tentando un po', siccome però sto facendo il bilancio di cosette da comprare, piccole cose, no? Non sapevo se prendere, sì, ma la lascio in macchina questa. Sempre utile, quando serve non c'è mai. E infatti io devo trovare il modo di mettere quel barrasone del baracchino, perché è troppo grande, perché come l'ho messo io non va bene, non l'ho dovuto togliere perché sennò magari mi aprono la macchina per rubarmi quello. Eia, magari non sanno manco cos'è, però lo rubano e lo danno al pidocchio, mi puoi, te le immagini? Glielo danno magari 10 euro tanto per farsi la dose, eh? La siringa e l'acqua distillata, una e una, come dicono loro. E allora, non uscire io da dietro, cazzo, quando fanno certe cose, a te lo vuoi immaginare? Se non esco io da dietro quando mi stanno aprendo la macchina, cosa gli dovrei fare? Gli avrei sparato in bocca. Eia. Poi avevamo poco tempo fa, prima di pulirla, di togliere tutto il superfluo, avevamo la macchina piena di cesoie, di, sai, quelle pincette per tagliare la roba, fiori, rametti, no, per giardinaggio, perché mamma ogni tanto si piglia i fiori da platamona, e si pigliava le mimose oppure si piglia altri fiori che ci sono adesso, no? Avevamo sempre queste cesoiette da giardino piccole, solo che sai, lasciate nell'abitacolo meglio non avere nell'abitacolo, meglio metterle, se proprio servono, nel cofano di dietro. Infatti, e anche un cucchiaio sul macchio di quelli a pressione mi bisogna mettere, di quelli piccoli. Poi naturalmente se trovi il solito, come dico io, ottuso, comincia ad attaccarsi che la pinza c'è il coltellino, ma qua c'è il coltellino, e taglia, e può essere usato per infilzare, e riesco. Quello è un attrezzo multiuso, cosa ci posso fare se c'è il coltellino? Perché poi è ridicolo nel coltellino, però c'è, sai, ci devi tagliare una cosettina, serve. Sempre bisogna battagliare con i soliti. Pensa che se tu fai un'escursione, no, sei campeggiatore, escursionista, per esempio la legge dice che l'escursionista, cioè quando fai scampagnate, marcette, no, trekking, l'escursionista può portare ogni tipo di coltello, la legge dice, però se trovi magari forestale il coso, comincia, ma qua, ma là, cioè loro ti dicono, noi denunciamo comunque. Allora la legge cosa cacchio l'hanno fatta fare? Già lo sai il rumore che ti faccio, Simi? Lo so, tavoletta. No, allora sai cos'è? Sì, tu quando sei escursionista puoi portare il coltello, ma l'importante è che si veda che non si possa chiudere. Nel senso che tu non devi avere un coltello a serramanico, tipo quello che ho io, che ti arrestano immediatamente. Se ti trovano la patatese che ho io, ti arrestano. Devi avere un pugnaletto, non un coltello normale. Ma che senso avrebbe? Anzi, ti dirò di più, che il coltello con la lama fissa è più pronto all'uso se uno dovesse infilzare una persona. E poi, scusa, la legge dice che l'escursionista può portare ogni tipo di coltello. Da dove è uscita questa regola della lama chiusa? Ascolta, quando io mi ho preso il porto d'arma, tanti anni fa, esiste da prima, allora sai che prima li potevamo portare, invece no, mi ho dovuto attaccare un pugnale tipo Rambo che fa la cartucciera io, perché il serramanico non lo potevi portare, perché si può nascondere, capito? Ma forse non lo so quanti anni fa era, io credo di averlo letto da poco e non mi ricordo nemmeno dove l'ho letto. A me pare che l'avessi letto in quel trattato per le armi. Ho preso un libro fatto da Edoardo Mori, che era un ex magistrato, nonché esperto di armi di tutti i tipi, e diceva chiaramente così, poi non so di quando è la legge. Comunque, per esempio, adesso ti dico quelli che ho di coltelli, no? Vabbè, c'ho uno che è più una spada che un coltello, non so se l'avevi visto. Sembra il coltello di Rambo 3 ed è fatto artigianalmente in Spagna con fodero in cuoio, è un'opera d'arte, ma quello va bene per aprire l'anguria, capito? Tagliare un angurione enorme. Poi vari coltellini di Kikia, tipo il solito coltellino da piccolino da campeggio, sai che dentro c'è l'amo, il filo da pesca, le solite fesserie, no? Che cosa va 10 euro peraltro? Che c'è la pietra per affilare, no? Ma vale 10 euro proprio una Kikia. Poi ne ho uno simile col manico in paracord, ma sempre roba economica. Poi dico dei coltellini comodi, ho l'Opinel numero 8 col blocco della lama, e poi ho il Mora Companion si chiama, un coltello svedese, quelli fatti di acciaio Sandvik, no? Ma svedese o di dov'è? C'ha le pugnature in polimeri e una lama da 10 semplice, però è molto buono quello del coltello. Insomma, l'Opinel, il Mora Companion. Poi ho preso un coltello da poco, si chiama Fiskars K40, sempre di tipo Scandi, lama tipo Scandi, però fatta in Cina, però importato dalla Cina da ditte svedesi. Tutte cosette così, mi. Che fanno bene quando ti devi tagliare il panino, quando devi sbucciare la frutta, capito? Niente roba impegnativa, hanno la lama fissa, tranne l'Opinel. Ne cappa. Io ne ho uno di quelli, anzi due ne ho tattici. Uno dei così, come si chiama, dei... ma Navy Seals con la lama nera, e l'altro è di quelli Bear Grylls. Sì, sì, mi ha mandato le foto, ho visto sia quello di Bear Grylls, oppure l'ho visto a casa tua quello di Bear Grylls. In foto mi ha mandato quello dei Seals con la lama nera, li ho visti. Comunque, cioè, se davvero è così la storia, non c'ho problema a portare una lama fissa, però... Anzi, prima dicevano il contrario, che la lama fissa era già pronta all'uso, se volevi delinquere c'avevi già un'arma pronta. Ma sto dicendo il contrario, per carità. Quella è colpa anche dei giudici, che secondo la testa loro fanno sentenze diverse. Che però ricordati, anche se dicono c'è una sentenza di Cassazione, dice, ricordati, la sentenza di Cassazione non fa legge, nel nostro tipo di sistema legislativo non fa legge la Cassazione. Diciamo che un giudice per una nuova causa può prendere spunto, ma non è obbligato a prendere spunto, un giudice può decidere autonomamente una nuova decisione, capito? Mentre negli Stati Uniti, in Inghilterra, le sentenze hanno valore di quasi di legge, capito? Come si suol dire, il precedente, come si sente nei telefilm. Quello c'è un precedente negli Stati Uniti, di solito è come se fosse quasi una cosa avente funzione di legge e devono seguire quell'orientamento. Invece la Cassazione da noi è... Sai perché i giudici seguono le sentenze di Cassazione? Perché quando i giudici non sanno come cose, che pesci prendere, cioè spesso e volentieri, allora seguono una sentenza di Cassazione, che può essere però sbagliata rispetto alla legge, a quello che dice la vera legge, capito? Lunga è la via, com'è? Non mi ricordo come si dice quel detto. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, e così è la legge italiana. Mi ritrovai nel coso una matita, capito? Non ti dico dove. Bene, bene. Ma sai, siccome in Italia, no, dobbiamo fare sempre gli americani, no? Quando sentono una sentenza di Cassazione subito è come se fosse legge, non è così, non è così. Cassazione è un parere di un giudice, punto. Ma il giudice può disporre in modo diverso, può decidere mille cose diverse. Diciamo che quando ci fa comodo citiamo le sentenze di Cassazione, giustamente, quando fa comodo a noi. Quando non ci fa comodo, diciamo che quella sentenza che magari ci punirebbe in una nostra causa, diciamo che non serve come cosa di legge, capito? Ti ricordi una volta a Natale, 30 anni fa, 40 anni fa, c'era la storia delle quattro dita al coltellino? Doveva avere la lama non superiore o inferiore alle quattro dita. Anche quella è stata abolita. Eh sì, allora non l'ho buttata a nulla. Sì. Ma lo sai che ci sono micro coltellini a portachiavi che hanno la lama di 2 cm, lo sai, piccolini piccolini. Beh, ci sono carabinieri, insomma, non per dire... Polizia, carabinieri, si sono attaccati al portachiavi con la lametta micro, sottile, poi mi, da due centimetri, ma così è proprio da, mi, suono, mi. Lo so, loro temono per la loro incolumità, ci vogliono disarmare, non vogliono che usiamo coltelli, perché quando magari vengono arrestati i bambini, si contro i carburesi. Vista là in America come fanno, invece di mandarsi 20 poliziotti, te ne mandano uno solo, e che la manetta pure quello, da solo. A chi ti va a inginocchiare, se non ti dica. In America i poliziotti, cacchio, a parte che picchiano già di loro, sono tutti belli, belli ticci, no? E se non basta quello, c'è il taser, se non basta quello, c'è lo spray al peperoncino, se non basta quello, per la bicciola. E quelli picchiano duro, eh? Se ti mettono male a quelli, ti rovinano, me. Sono a 6 metri, e sono tutti allenati, gente allenata proprio, che devi andare, se tu pensa, se poco a poco superi il peso, che ti vedono grasso, che non ti muovi, devi andare all'arte a recuperare il peso forma, se no perdi il posto lì, devi andare obbligatoriamente a sparare, obbligatoriamente. Ah, non lo sapevo questo. Comunque è vero, in Italia vogliono a tutti i costi, sa chi si mette di mezzo però, rispetto alle leggi, si mette sempre in mezzo, aspetta come si chiama, mi pare sia il Ministero degli Interni o come si chiama, si nota nel Ministero, cioè il Ministero certe volte fa delle vaccate che contrastano con la vera legge, capito? Siccome non gli fanno bene le leggi, il Ministero degli Interni a volte fa cose che sono proprio contrarie alla legge. In Italia c'è questa tendenza a disarmare il cittadino, non deve avere niente il cittadino, né spray, peperoncino, nulla. Deve essere inerme, capito? Così la polizia magari in futuro potrà fare i soprusi che vuole e i cittadini sono disarmati e inermi, capito? Come è successo nel 1800 e tanti, no? Quel generale, c'era una rivolta popolare, no? Per motivi loro. E purtroppo i cittadini non erano armati, la maggior parte, insomma. Quel generale, Bava Beccaris, ha preso la popolazione a cannonate, per sedare la rivolta, capito? E così non gli sembra vero anche in questi tempi, così il popolo non si può girare, capito? Vengono da me a vedere se mi posso girare. E tu se vuoi già ti giri forte. E io cosa faccio? Cosa gli sparo col soft tire? Ah? Fucile calibro 12, Bighele. Perché la vicina fa un danno pauroso. Fa ricatto a pallettoni. Neanche a palla, a pallettoni, così non li sbagli. Sì, a pallettoni c'era, ho visto una bellissima cartuccia tanti anni fa, di una ditta forse americana, no, sai quelle Winchester, aveva vari pallettoni calibro 8, dentro c'erano non so quanti pallettoni, però vari pallettoni calibro 8, quindi come spari, cazzo, ti devasta, capito? Belle quelle cartucce. A me sai quale piace? È sempre piaciuto lo Space 12, che funziona sia in automatico sia a pompa col selettore e ha il calcio traforato pieghevole, quello è bello. Ma costa un botto. Lo so, ma magari un buon usato si trova anche a meno. Quello lo vedevi anche nei film tipo Terminator, lo Space 12, c'aveva proprio quello. Quando il Terminator è andato a comprare le armi, no, nel primo film, aveva chiesto uno Space 12, una Colt tipo 1911 in acciaio inox, canna lunga con laser, Colt naturalmente semiautomatica, no? Colt semiautomatica, acciaio inox, mirino laser e una Uzi 9 mm, la Uzi già lo sai, no? Cazzo, quella lì di quanto veloce fa un danno. E infatti ne ha fatto danni. Poi lui aveva chiesto nel film, no? Credendo che esistessero già, che lui era venuto dal futuro, il Terminator, un fucile fasato plasma calibro 40-0. E la mia era detto, e cos'è? Non ne abbiamo roba di quella roba. Bene, bene. L'altro giorno mi stavo mettendo a posto tutto il coltellame. praticamente ho ritrovato sempre da Lido. Da Lido lì ho comprato tutto, tutto. Ho comprato il solito coltellino multiuso, con coltellino, seghetto, apriscatole, apribottiglie, poi tutte quelle cose strane che non sai cosa sono. Addirittura c'ha la lente di ingrandimento, lo stuzzicadenti e la pinzettina. Bello, bellino, costato una miseria, sempre con la custodietta che puoi mettere nella cintura, no, attaccare alla cintura. E poi un coltellino con blocco lama che mi aveva regalato mamma, col manico in micarta, lo sai in micarta, no? Quei manici economici che sono fatti da un misto di carta e resine. Quindi solo la lama c'ha il blocco della lama, in modo che non si apra, che non si chiuda se non vuoi. E poi ho ritrovato anche, sai quel coltello multiuso, non è un coltello, praticamente c'è forchetta, cucchiaio, coltello, apri bottiglie e lo puoi dividere, lo puoi dividere e puoi fare due posate singole. Sì, perché quello per sopravvivenza, campeggio, queste cose così. Per esempio, quando andiamo al mare, magari mi dimentico, penso ci portiamo l'insalata di mare, no, come si chiama? Insalata di riso, certe volte dimentichiamo le posate, e come facciamo? A mano lo dobbiamo mangiare, io mi porto sempre quello, e ho tutte le posate pronte per mangiare. Quello è giusto. Ma ieri siamo stati bene lì a Fortore, la verità ha anche piovigginato. Oh, ha piovigginato. No, qua no, mi pare di no, no, non ha piovigginato. Qua sì, a Fortore, se sì, mi chiami mia moglie qua, o con te. Ieri piovigginato a Fortore, quando siamo andati alla cosa dei cani. Se ha piovigginato ieri. Mi sentitela? Eia. E beh, Gianni non sta più entrando, come mai? Perché dice tanto non c'è nessuno e quindi non entro. Gianni era lì a Porto Torres, che c'era Roberto che aveva un cane pastore tedesco, figlio di non so quale campione, e praticamente l'ha pagato roba di 3.000 euro il suo cane, ma era bellissimo. Ma Roberto chi? È un nostro amico, Roberto Sidi, che lavora al Banco di Sardegna. Ah, ma non Cipino. No, no, non è Cibi. Questo qui è appassionato di cani e se l'ha comprato questo cane, bello. L'ha pagato un sacco di soldi, è rimasto ai prezzi di prima. Adesso te li fanno pagare migliaia di euro. Scusa, questi cani. Da quando c'è l'euro, te l'ho detto, prima dell'euro tre magliette 10.000 lire, appena passato l'euro tre magliette 10 euro, che sono quasi 20.000 lire, tre videocassette, nota bene, tre videocassette VHS, 7.900 lire, ci siamo? Appena passato l'euro, questo da Auchan, tre cassette, 7,90 euro, che sono 15.000 lire, quindi il doppio, ce l'hanno messa dietro, hanno raddoppiato le cose, almeno la maggior parte delle cose, ho visto che sì, una costava, se una cosa costava 5 euro, 5.000 lire, 5 euro, capito? Quindi è raddoppiato tutto. Infatti io me ne vorrei andare dall'Europa, per non ingrassare il culo alla signora Merkel e tornarmene alla lira, perché ci hanno messo col culo per terra, scusando la frase. Bisognerebbe emigrare in un paese, si può fare, la pensione poi te la mandano nel paese, capito? Ho visto italiani che erano andati, vabbè, anche in Europa, no? Tipo un paese dell'est, non mi ricordo qual era, però pagavano molto, ma molto meno di tasse, lo sai? E ti credo, in qualsiasi posto, lo sai quanto negli Stati Uniti, in Texas, quanto si paga? Il 20% di tasse, ah, c'è differenza, io che paghiamo quasi un 70% di tassi, cioè dammi un impiego, almeno non mi metto né contro me né nulla, non ho nessuna responsabilità. cazzo, la bufonese, quel Claudio mi piglia 6.000 euro al mese facendo il camionista e paga il 20% di tasse. Purtroppo l'Italia è un paese parassita, cioè vogliono tasse, poi la sanità è a pezzi, la scuola è a pezzi, tutti i servizi fanno schifo, capito? Quindi non si sa i soldi dove vadano. Anzi, grazie a Dio l'altro giorno sulla 131 hanno asfaltato la strada, a me. Devo grazie a me. Lo stanno facendo tutto a pezzi, no? A varie parti. Capito, la scuola è uno. Lo sai che quando lavorava mamma era passata una circolare se i genitori potevano contribuire a comprare la carta per le fotocopie, i gessetti, capito, il materiale, proprio le cose base, ridicolo. Per forza, siamo un po' così a cattoni, cazzo. La carta igienica mi ti dovevi portare da casa, se no non ti pulivi il sedere. Roba da matti. Ma roba da matti veramente. Avanti, chi è l'amicaccio? Caspita, un'escursione di segnale notevole. Niente, l'amicaccio non vuole entrare, pazienza. Forse è in un'altra ruota lontano. Polacci. Oh, comunque di ex non la sto facendo, l'ho fatta giusto un giorno e c'era anche Fabrizio mascherato, ma poi mi sono ubriato a stare appresso, capito? E vabbè, dai, anche oggi siamo a casa, comunque niente mare. Siccome ho visto che c'era un po' di venticello, ho detto non è che poi mangiamo sabbia in spiaggia, no? Ho capito. No, ieri è più vicinato, eppure ti so dire, era una bella giornata per stare di fuori, cazzo, si stava bene là. Ehi, avete fatto bene a uscire. Io ero sempre a casa a letto, cuccato, col caldo. Anzi no, caldo, poi abbiamo aperto le finestre e c'era fresco. Sono molto mandrone, sto diventando molto pantofolaio. Aspetta un attimo. Oh Marco, ti vuoi lasciare che sta venendo gente a fare una telefonata? Ehi, è Natali, dai, intanto io fra un po' mangerò e ci sentiamo, dai, ciao ciao. A più tardi, se no ritieniti salutato, ok? Ciao. Ciao, le plus. Giulio? Sì, ciao Marco, mi sta guardando Marco. Beh Giulio, ti ho riconosciuto dal rumore ambiente, dal fruscio, dallo stacco. Buona serata, fino a poco fa eravamo con Natalino a ceramitare, mi. E poi ho dovuto fare una telefonata e ha chiuso. Tu hai acceso adesso. Ah, ok, ho capito. Sì, certo, se un giorno sentire qualcuno in baracchino, non c'era più nessuno, né qua né in altri canali, adesso a parte, tutti out. Lo so, guarda, anche domenica un deserto. Poi vabbè, per esempio mi ha detto che Natalino e Gianni erano produttori, eccetera. Però c'è penuria, va bene, estate, anch'io mi sto dedicando un po' ad altro, dai. Vabbè, dai, lui accende ogni tanto, io di solito lascio acceso tutto il giorno, fino a notte tardi, certe volte me lo dimentico anche acceso di notte, poi se sento chiamare, magari entro, ma se non sento chiamare, cioè se premo la portante io dall'altra stanza non sento niente, per esempio, magari c'ho la TV o il ventilatore. Oggi vabbè siamo casalinghi, sono andato solo a comprare due cosette da Lidl, l'acqua che l'avevamo finita, sia frizzante che naturale, e altre due cosette, da. Ho preso una pinza, come diceva Natalino, una pinza pieghevole multiuso da Lidl. Comoda, si ripiega su se stessa, diventa piccola, ti danno anche l'astuccio nero che puoi attaccare alla cintura volendo. e ha le solite cose, coltellino, limetta, cacciavite, croce, taglio, varie cose, anzi lo sto ancora collaudando, devo vedere cosa tutto ha. Però voglio lasciare in macchina dietro il cofano, perché certe volte mi sono trovato a avere roba dura che non riuscivo a stringere, a mollare, tipo un bullone. La pinza sarebbe stata molto utile. Insomma, lo stavo collaudando, dai. Ok. Alla volta ci sono delle cose discrete che si possono comprare lì da Lidl. È vero. Non è che per caso hai visto o intravisto lì da Lidl qualche compressore d'aria, no? Perché quello mio mi si è bucato e adesso se non riesco a ripararlo lo devo comprare nuovo, anche se ormai non è che mi serve più di tanto, ma alle volte capita che mi serve, almeno ce l'ho pronto. Vediamo un po', non è che hai visto un compressore d'aria, no? Compressore, ma quelli con la bombola, col serbatoio, o compressorini piccoli per gonfiare le gomme della macchina? No, quelle no. Sono compressore d'aria proprio per lavorare, compressore con la bombola, il bombolone, no? Grande, ma almeno una cinquantina di litri, capito? Una roba professionale, dai. Guarda, credo di non averne visti, proprio compressori no. Li ho visti in vari modelli da Bricoman, i compressori. Infatti mi sarebbe piaciuto, è che costano tutti dal centinaio di euro in su. Alla fine per gonfiare due gomme, per me, diciamo, non uso vernici, sai, il compressore mi serve poco. Hanno cosette per la macchina anche da Lidl, hanno portato di nuovo quella stazione saldante, tante piccole cose, dai. Ci ho preso da poco il kit di pronto soccorso, una confezione rossa, c'ha una marea di roba da mettere in auto per esempio, o da tenere anche in casa, Ci sono più bende che, caspita, ci sono un sacco di bende, proprio roba da incidente stradale. Tocchiamo ferro, aspetta. Io ce l'ho sempre, solo che adesso non l'avevo più usato. E non usandolo, che cosa è successo? Evidentemente si è formata della condensa dentro e in un punto dove c'è appunto una saldatura si è marcito lì e si è bucato, per cui ora devo trovare una saldatrice a filo continuo, e già ne conosco di persone, ma devo chiedere se non la toccano, o perlomeno dovrò comprare un nuovo. Lo so che costa oltre 100 euro, già lo credo, ma se l'ha anche 150 euro, 160, 160, grosso modo almeno 50 litri, a me mi accorre così, cioè mi accorgo tra virgolette, perché ormai non sto più lavorando, però quando vado in bottega mancando il compressore sembra che mi manchi qualcosa, capito? Faccio un lavoretto e se c'è lo uso. Io mi stavo guardando quelli piccoli, non so quanti litri fossero, piccoli, per gonfiare le gomme se mi serve, solo che è sprecato, dai, per gonfiare le gomme alla fine mi basta la pompa a doppio pistone, anche per esempio da Lidl hanno messo anche quella per auto, io ce l'avevo già da tempo, hanno messo una, che poi l'hanno finita, una bella pompa a doppio pistone con manometro che poi non segna mai giusto, beh, c'è una ruota mezza sgonfia, la collega a pedale e ti gonfia la gomma, è un bel oggettino anche quello. Adesso della moto ti spiego, la moto è rimasta ferma troppo tempo, la batteria si è scaricata. Vado a prendere il nostro vecchio caro caricabatterie di famiglia, che è vecchio di 30 anni se non di più, è morto, il fusibile a posto, la tensione c'è, a posto ma non carica, è grosso e pesante poi. quindi appena da Lidl capiterà il famoso caricabatterie piccolo, va bene sia per moto a 12 volt, per macchina a 12 volt e per 6 volt anche. Quello per me è perfetto perché dà una carica piccola, cioè dà una carica lenta per le batterie da 10 ampere come quella dello scooter, no? Ho chiesto al commesso, ha detto che non ce li hanno da un bel po' e quindi è probabile che tra poco li abbiano, perché fanno sempre la rotazione, no? Ogni 8 mesi li presentano gli articoli. Mi sarebbe tornato utile, adesso io non so che fare, costa molto, se comprare la batteria nuova oppure caricarla non la posso, caricarla non la posso. Ehi, ecco, se va tanto tempo senza ricaricare, magari la batteria in effetti è andata in avaria, sarà per quello. Ma no, anche io ho cambiato la batteria della macchina, nel quale il giorno 21, il 21 di giugno, a un certo momento, stavo a mettere in moto la macchina, tra l'altro ero già uscito, ero anche un po' di a casa, con le case e tutto. Stavo a mettere in moto per rientro a casa, boh, e non partivo. E allora sono andato, ho preso la batteria nuova, pochi soldi lì, 60 ampere, 50 euro l'ho pagata, e funziona che non me la via. E al supermercato l'ho comprata. E va benissimo, guarda, funziona, perfetta. Adesso appena che la tocchi la macchina parte subito, come prima del resto, no? Ma ormai ce l'avevo già quasi 8 anni, quella che c'era sotto era la batteria originale di quando avevo comprato la macchina, per cui ne aveva ragione anche, no? Di smettere di funzionare. Eia, sì, da Ucciano hanno tante belle offerte. Stavano vendendo batterie a un costo anche basso, da 40 ampere, 45, no? E a me era venuto anche di piccia di mettermene una in casa, solo che questo non è il periodo, magari in inverno, mettermi una batteria in casa, carica, tenerla sempre carica in caso di, come si chiamano, dei blackout per la radio, solo che non vuoi più nessuno altro le batterie mentre. No, ma poi sono tutte cose che non prenderei perché non c'è il tanto, dai. Ok, beh sì, in effetti. E infatti quella che ho tolto io la devo portare lì all'ecocentro, perché giustamente non è che la puoi buttare così, ma devi smaltirla, bisogna portarla all'ecocentro. Infatti magari domani se mi capita ci con un po' di tempo vado e ve la porto. Cioè tempo ce l'ho, ma diciamo che ogni tanto faccio qualcosina così, per caso soprattutto, insomma mi diletto a fare qualche cosina. E dunque la batteria mi è rimasta lì, ce l'ho in bottega ancora, ma la devo smaltire, no? E la devo portare lì, all'ecocentro, già vicino, da dove sono io, per cui va bene. Sì, ripeto, sì, che bella moto c'era, piccolina, ma 12 volte, piccolina, non so di quanti ampere ti serve a te, forse ti basta 8-10 ampere, 12 ampere massimo per la moto, penso che sia quello l'amperaggio che serve. E c'erano anche quelle, perlomeno questo è il giorno 21 quando ho comprato io la mia, ma la mia era 60 ampere, per cui era abbastanza potente. Allora la moto ha una batteria da 10 ampere, lo scooter 10 ampere, 12 volt, ed è una Yuasa, adesso non ricordo la sigla, è una Yuasa, quindi batteria giapponese di tipo sigillato, sono quelle che non hanno i tappini per traboccare l'acqua distillata, è di tipo sigillato, non so se sia un bene o un male, ma le Yuasa sono buone, ottime, le mettevo io nella motocicletta, la Kawasaki, la Honda, mi ricordo, ma erano diverse da queste di adesso, queste sono un blocco unico, lo sai. Comunque mi hanno detto che è un'ottima batteria, anche quando ho preso lo scooter, dice se la cambi mettila uguale perché ti dà un sacco di tempo, infatti la moto non sbagliava un colpo. purtroppo averla lasciata ferma tanto tempo, la scaricata, magari solo scaricano, chi lo sa. E vabbè, per adesso soprassediamo, dai. Poi, che ne so, da Lido l'ho visto che hanno trapani, roba del genere, roba da lavoro, guarda, un sacco di roba bella comunque. Ogni tanto qualcosa ci scappa. Poi, fammi prendere un sorso d'acqua, dai. Vai. Che poi ce l'ho qua l'acqua, eh. Natalino, ci sei all'ascolto? Sei ancora al telefono? Ecco, stavo dicendo. Adesso dovresti provare a ricaricarla, quella se vuoi, ma ho paura che sei da tanto tempo ferma e non funziona più, perché succede così, le batterie succede così. Io lo proverei alla Ocean per il semplice motivo che ho avuto una bellissima esperienza sempre comprando le batterie allo Ocean. È una batteria che avevo comprato allo Ocean, nonostante che tutti la criticavano, sono batterie che non servono. Ma non è vero, non è di marca, non è questo, non è quello là. Io mi ricordo che ne avevo comprato una allora, tanti anni fa, avevo pagato 29.000 lire, allora c'era la lira. Senti, io che con la batteria l'ho usata per almeno 10 anni, perché l'ho usata allora di 7 anni nella macchina. Poi che avevo cambiato la macchina, l'ho messa nel motocarro da lavoro, nell'apero, l'avevo messa. E l'ho usata per altri 3 anni, fin quando non ho rottamato la moto. La batteria c'era sempre, pure quando l'ho tornata l'ho tolta, l'ho lasciata in batteria così, e poi naturalmente non utilizzavano più, si è rovinata. Succede così, capito? Ci vuole fortuna anche con la batteria. Sì, è vero, ci sono batterie che nascono bene, a parità di marca proprio di modello, e batterie che nascono male. Certe batterie mi erano durate tipo un anno e mezzo della macchina, un anno e mezzo. Certe invece se ne sono cavate 2-3 annetti. Siccome poi la macchina non camminava, no? L'avevo portata al meccanico col carattrice una volta, mi ha messo, nel 2015 mi ha messo una batteria Magneti Marelli, purtroppo lui usa quelle. Però Magneti Marelli dicono che siano buone. Sì, l'ho messa a febbraio 2015, quindi ha già fatto 2 anni solo. Dal 15 al 17 2 anni solo. Però adesso va bene, vediamo quanto durerà. Sì, ma è così. Perché la gente dice deve essere di marca, deve essere questo, deve essere quella. A me mi sembra che sono tutte più serie. E poi guarda, se tu vai dall'elettrauto a farti sostituire la batteria, con l'elettrauto guarda, la compra, e te la sostituisce. Anziché pagare 50 euro te la può pagare 120 euro. Tu pensa che quella batteria che ho comprato io del 60 ampere, alla Citroen costa 140 euro. Anche per questo sono passi veramente. Aspetta. Sono andato all'Ocean, l'ho vista, precisa, identica, va benissimo, stessa grandezza, tutto quanto, e funziona con la meraviglia. 50 euro. Se si va a mettere rovinare anche fra 2 anni, casi da tutti, vado a comprare un'altra, sempre con quella cifra. Capito, Marco? Puoi prendere tu una batteria per una marca a 140 euro, anche se sono marca Venuso. Sì, 140 euro, quant'è? È una follia, dai. Già quella che ha messo a noi il meccanico Magneti Marelli costava un centinaio di euro da lui, magari se la trovi, se hai la fortuna di trovarla dal rivenditore te la fa pagare magari 70-80, giustamente il meccanico ci mette il suo ricarico, no? Se no di cosa camperebbe? Magari anche 30 euro ci mette il ricarico, se non di più. Noi mettevamo, prima di questa mettevamo le Ursus, marca Ursus di Ocean proprio. Sì, e quella è la marca appunto che avevo io, quella vecchia che ti ho detto che l'ho utilizzata per almeno 10 anni. Sì. Tu pensa che quando è un annetto fa avevo cambiato la batteria all'altra macchina, all'altro Fiesta, e quella, ma sono capitato per il guardacarico con un controllo, sono andato a metà punto, eccetera. E il caso appunto che si è guardata tutto lì dal meccanico. Non capisco come mai. Già che ci sei, il meccanico anche la batteria. È andata la comprata lì da Oema, via Sorso, quello questo che c'è in via Sorso, attaccata alla banca, là, diciamo, vicino alla banca. Io quanto euro me l'avevo fatta pagare, la stessa batteria, sempre a 60 ampere. Ma questa volta non mi ha pregato, questa volta sono andato io di persona e l'ho comprata lì alla Dauscia. 50 euro va più che bene, alla grande. A voglia. Ma così essere anche ladri, comprarla dal coso e fatela pagare per il doppio. Guarda, da noi, vicino a noi, in via Gorizia, c'è un rivenditore di roba per macchina, batterie, tutto, spazio, reteggi cristalli, che ha prezzi abbastanza popolari, diciamo, dai, alla mano. Vabbè, batteria lì non ne ho mai preso, però volendo è a un passo da casa. Poi c'è un ricambista dove prendo i ricambi Opel, sai di dove? Di solito, vabbè, fesserie, prendo il vetrino dello specchietto, quelle cose lì. Hai presente la piazzetta, no? Dalla parte di Predanieda della piazzetta, no? La piazzetta gira a sinistra, lì gira a destra, in una di quelle piuzze c'è questo rivenditore e poi si ricambio. Poi avevamo messo a posto i vetri, te l'avevamo detto, i vetri anteriori che non aprivano, e l'abbiamo revisionata. Non controllano un granché, controllano più che altro lo scarico dell'auto che non inquini, i freni e il faro anteriore. Cioè mettono un macchinario per misurare la luminosità del faro, non controllano né frecce, né stop, né luci retromarcia, nulla, né il clacson hanno controllato. Insomma, io preoccupandomi per mille cose, sai, magari la ruota un po' consumata, non nuovissima, diciamo, nulla, perfetto. Non sono così fiscali, dai, se la macchina ma va bene, non sono così fiscali. Certo, se uno ha gravissimi problemi, allora gliela bocciano. Beh, certo. Ma io, adesso io non vorrei essere così pomeroso. A me la batteria mi si è guardata l'indomani che l'ho revisionata. Perché ho revisionato la macchina il giorno 20, che mi scadeva la revisione, mi scadeva il giorno 24. E loro l'hanno attaccata in una macchina. Una macchina, cioè, si era attaccato alla batteria, si è a posto, la batteria a posto, e in effetti era a posto. L'indomani si è fatto quel difetto. Adesso non vorrei che, avendo loro utilizzato questo tipo di macchinario per controllare l'efficienza della batteria, che andrebbe essere in qualche maniera danneggiata, non lo so, adesso io non voglio essere così premoroso, però un minimo di dubbio mi è venuto, Marco. Adesso la revisione, tutto a posto, anche la batteria, che è la primissima cosa che loro hanno controllato, cioè ha fatto un cofano, ha attaccato questi cavi o questo strumento, la batteria è a posto, vabbè. E l'indomani, tac, esattamente a distanza di 24 ore esatte mi si è rovinata la batteria, boh, sarà stato un caso, sarà stato quello che vuoi. Però, se permetti, un minimo di dubbio lo potrei anche avere, no? Ma poi così o era destino me. Ah no, giusto, me l'hai ricordato tu, controllano, mettono i cavi alla batteria e controllano che l'alternatore carichi la batteria, capito? Controllo anche quello, perché se l'alternatore non carica la batteria, allora c'è un problema. L'impianto elettrico può avere problemi. Quindi riepiloghiamo. Hanno controllato batteria e alternatore lì. Scarico. C'è la marmita, non lo scarico, si inquina, vabbè, un'occhiatina alle gomme hanno dato a un passante, poi hanno controllato i freni, la frenata anteriore e posteriore, e poi mettono questo misuratore all'altezza del faro, e non lo so cosa vedano loro, forse gli dà un'indicazione di come è orientato il faro, della luminosità del faro, così, dai. Sì, quello per vedere se i fari sono lavorati, se non sono troppo alti, perché se è troppo alto, quando poi lo accendi tu fai altro che abbagliare se la macchina si deve lavorare dall'altra parte, invece contro di te, per cui loro controllano anche quello, che i tali siano regolati giusti, siano regolati, senza che appaiano nessuno, perché succede, alle volte un farlo cambio prende un po' di collo, di qualche colpo, oppure si può anche muovere, perché si regola tramite una vite che c'è, capito? E allora mettono anche quello, che i fari devono illuminare da quell'altezza a quella profondità, per cui non è capito, è importante quello. Io ripeto, con la macchina mia, con la nuova, mi sono appena 32.000 km, si può immaginare, anche quello vogliono, scrivono anche quello, perché nella revisione bisogna fare, cioè far sapere quanti chilometri ha la macchina, per cui si può immaginare, ma loro non ci credono nemmeno, perché la macchina che ha 8 anni, che ha 38.000 km, 32.000 km, insomma sembra un po' strano, ma qui è così, i chilometri sono originali, quelli della macchina mia, e nuova nuova, capito? Nonostante che ce l'ho 8 anni già. Sì, già. No, la nostra ne ha 168.000 e tanti, e sì, i chilometri me li hanno chiesti. Però ho notato che questo macchinario per misurare il faro l'hanno messo solo su un faro anteriore e basta, non hanno misurato tutti e due i fari, l'hanno messo forse per vedere se, non te lo so dire, se c'è un calo della luminosità quando la macchina è al minimo, non so cosa controllino, solo un faro l'hanno messo, non hanno controllato né frecce né stop, nulla, vabbè, meglio così. Magari alla motorizzazione sono molto più fiscali, sicuramente sono fiscali lì, ma se la macchina è a posto, funziona tutto, non devono trovare storie, no? Vabbè, certo, infatti è così. Se è fiscale, la macchina deve essere perfetta, perché se ha qualche danno, qualche difetto, può essere pericoloso, sai. Se tu vai a con i fari che sono troppo alti, abbagli le persone che ti vengono dall'altra parte, se poi sono troppo bassi non vedi bene, perché giustamente non ha la profondità giusta, insomma è giusto che sia così, dai, ma non solo quello, e i freni, addirittura dove vado io sono pignolissimi, ma molto pignoli, io vado via nella strada 24 da Fiuli a Pedralieda, che poi non è altro che una officina Fiat, tra l'altro ci sono anche meccanici, in caso di avaria, di qualche cosa, se vuoi te la mettono a posto loro lì, ma io già ho il mio meccanico personale, che poi tra l'altro non ne ho bisogno di meccanico ancora, perché la macchina, ripeto, è nuova, per cui va bene così, non ho quel problema, almeno per il momento, almeno spero, poi naturalmente anche la macchina nuova può avere problemi, ci mancherebbe. Per dirti, no, ma è giusto che sia così, tutta regolare, se no guai, Soprattutto che freni, per esempio, se non frena guai. Purtroppo Giulio è arrivata il pranzo e quindi devo chiudere. Non so se rientrerò dopo, se no ritieniti salutato, come ha detto Natalino. Poi siete Natalino, vi fate una chiacchierata, ce lo chiamiamo pure. Natalino, ci sei? No? Vabbè, magari per oggi non riprende, dai, io glielo ho detto, se dopo ci sei bene, se no ritieniti salutato. Ok, adesso mangio questa cosetta e poi si vedrà se rientro, dai, ok? Ciao Giulio, buona serata. Ok, ciao, ecco, ci sentiamo, dai, buon pranzo allora. Sì. Spero che stia uscendo ancora bene, sempre con questo famoso ripolo, eccetera, eccetera. No, perché vedo un po' segnale che non è il solito, si vede che stai usando 2-3 watt, stai usando massimo 4, non di più. Stai arrivando 9-5 e tu mi stai arrivando. Io, nel senso, sto uscendo con 4 watt esattamente, più o meno il segnale si equivale, io penso, però vabbè, dai, Marco, ci sentiamo le prossime, ciao, buon pranzo. Ah, io? Io avevo rifatto uno spinotto che si era rotto il PL La bomba di solo spinotto, qua vedo che è tutto a posto, almeno sembra, vediamo. Aspetta. Allora, se vuoi recal, anche se molto aleatorio, no, non ce n'è. Sì, sto usando 4 watt, sto usando sempre il Superstar 3009 omologato. E questo, guarda, non lo sostituirei con nessun apparato, lo sai. 3009 per me è l'apparato. Esce bene di radio, riceve bene, cosa vuoi di più? Controlli manuali, sì, niente menu, sottomenu, sai, quelle cose di adesso. Sì, sì, no, ma quello sì, va benissimo. È un apparato che va benissimo, Superstar 3009 è eccezionale. Ma tutti i Superstar, non solamente 3009, anche il 360, come quello che ho io, e anche gli altri, tutti funzionano tutti bene. Ma come mai? Io con 4 watt lo stesso. Segnale sempre quello, già mi senti bene, per cui non te l'ho chiesto nemmeno. Lo canti, già va bene, la cosa è. Marco, ci sentiamo le prossime, vai. Comunque l'apparecchio rimane sempre acceso e poi se entra qualcuno al limite ci aggreghiamo, ok? Alla prossima, dai, ciao Giulio, ciao, buona serata. Ciao Marco, ciao. Avevo scritto su WhatsApp, un SMS. Vabbè, avrei letto, sentato. Tutti morti, vabbè, ciao Marco, buonanotte. Sì, l'ho letto, dice la 27 alla fine. Ma speriamo di no, se no tutti gli apparati in più sono sprecati, dai. Beh, in effetti sì, va bene. Pazienza, sopporteremo anche quello. Ciao Marco, buon pranzo, ciao. Ciao.